Oh, Katiuscia, non è più tempo di stare qui. I compagni fanno la guerra con le tozze. E tu, scarpe rotte, dove credi di andare? Farai bene a buttarle. Cessa il vento, Katiu. Oh, Tatiana, cessa il vento, una fava. Qui ci manca ancora troppo da pazzia. E credimi, l'invasore rimane. E se ti chiama compare, è il peggiore, si sa. Mi hanno offerto la sedia accanto a Dio di giocare nel derby con Falcao. Due si sono ucraine, un vitalizio e il sangue blu. E anche se c'è ancora molto da fare, ci si potrà ragionare. Io intanto accetto Katiu. Ti hanno offerto la sedia accanto a Dio di giocare nel derby con Falcao. Due si sono ucraine, un vitalizio e il sangue blu. Ma solo per non farti gridare, che li dovremmo impiccare, e lo sai bene anche tu. Ti hanno offerto la sedia accanto a Dio di giocare nel derby con Falcao. Due si sono ucraine, un vitalizio e il sangue blu. Ma solo per non farti gridare, che li dovremmo impiccare, e lo sai bene anche tu. Vai vu vai va, va vu vi va va vai va, va vu vi vu vu vai, tira vu vai. Si si si si, si si si si si si si. Sa su si su su, action, vieni qui. Oh Tatiana, certo eri bella la sera, che erano più di 100 i corpi intorno a noi. E proprio lì tu mi hai fatto giurare, saremo liberi o morti. Io non sono libero e tu? Io sento freddo e mi fa male la schiena. C'ho famiglia, mi manca un anno alla pensione. E poi sai com'è, ci si deve adeguare e responsabilizzare. C'è la crisi, Katiu. Mi hanno offerto la sedia accanto a Dio di giocare nel derby con Falcao. Due si sono ucraine, un vitalizio e il sangue blu. Ed anche se c'è ancora molto da fare, ci si potrà ragionare. Io intanto accetto Katiu. Ti hanno offerto la sedia accanto a Dio di giocare nel derby con Falcao. Due si sono ucraine, un vitalizio, il sangue blu. Ma solo per non farti gridare, che li dovremmo impiccare, e lo sai bene anche tu. Ti hanno aperto la sedia accanto a Dio di giocare nel derby con Falcao. Due si sono ucraine, un vitalizio, il sangue blu. Ma solo per non farti gridare, che li dovremmo impiccare, e lo sai bene anche tu. Vai vu vai va, va vu vi va va vai va, va vu vi vu vu vai, action, bini bistec, stigi digi, va vu diga che sigi.